Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. La puntata numero 62 di Picchi di Frequenza apre, come ormai di consuetudine, con le news della settimana. Fatti, eventi, segnalazioni, quello che vi serve sapere per una settimana, quella entrante, d'alta quota e al di fuori della città. Prosegue con l'incontro con la sezione capitolina dell'APE, che annuncia finalmente, dopo 40 anni d'attesa, potremmo dire, l'apertura del suo rifugio, e prosegue con la consueta rubrica di Pedagogia della Montagna, che tra guanti e cappelli ci offre i suoi consigli per la stagione passata e quella che viene. La rassegna stampa di questa settimana apre su Montagna TV. Il titolo è Google si cala all'interno di un vulcano. Arriva fino alle viscere della terra, il tracker di Street View, lo zaino robot equipaggiato con fotocamere per mappare a 360 gradi gli angoli più remoti del mondo, si è calato dentro Marum, il più grande cratere lavico al mondo. Ospita un lago di lava grande quasi quanto due campi da football, che si trova su una delle isole dell'arcipelago di Vanuatu nel Pacifico meridionale. Ci sono non soltanto una serie di immagini di assolutamente affascinanti, ma anche la possibilità già di navigare, per così dire, all'interno del vulcano. E sempre su Montagna TV, questa volta non un redazionale ma a firma Agostino da Polenza, arriva un brano dal titolo Dall'alpinismo eroico all'era dell'alpinismo scettico. A metà aprile a Grenoble ci sarà la premiazione del Piolet d'Or, che i più definiscono l'Oscar dell'alpinismo. Sarà così anche perché a scegliere i vincitori sono i membri del Groupe des Hautes Montagnes, GHM, che raccoglie il meglio dell'alpinismo francese di sempre. Ma il 13 a Grenoble ci sarà anche un forum, un dibattito su un tema cruciale e sempre più attuale, che riguarda la credibilità e il valore di quello che gli alpinisti raccontano d'aver realizzato. Come dire, non ci basta più la parola. E prosegue. Per la verità, negli ultimi anni i casi di salite truffaldine di montagne e vie si sono moltiplicati, ed è sintomatico che proprio in occasione di un premio prestigioso ed ambito, o dei conoscenti che farebbero carte false per un Piolet d'Or che il destino baro non gli ha voluto ancora riconoscere, venga lanciata questa nuova era dell'alpinismo scettico. Se volete appunto approfondire, trovate l'articolo completo su montagna.tv. Ancora una notizia dal titolo questa volta un po' più piccato: l'ennesimo sfregio all'Everest. Curiosamente arriva da La Gazzetta dello Sport nella sua rubrica di Alpinisti e Montagne, e il brano è di Alessandro Filippini e apre così. Oggi la maestosità della più alta montagna della Terra, l'Everest, sta subendo l'ennesimo sfregio, probabilmente il peggiore fin qui. Infatti da ieri è al campo base del versante nepalese, insieme alla sua troupe, Paul Mark Oakenfold. Il britannico non cercherà di salire gli 8.848 metri del Sagarmatha, come è chiamato l'Everest dai nepalesi. Nella foto lo vedete festeggiare la conclusione di un semplice e banale trekking, particolarmente affollato in questo periodo in cui anche tutte le spedizioni commerciali stanno portando i loro clienti al campo base, più di 500 gli annunciati per questa primavera. Oakenfold, il suo quarto d'ora di fama, se lo sta garantendo da programma in queste ore con il più inutile e offensivo dei record. Infatti è un DJ e quel che ha in programma è una esibizione di musica elettronica. Vado un po' avanti, l'operazione di Oakenfold fa parte di un progetto più vasto, Soundtrack, per portare i suoi parties nelle location più inusuali, il che significa probabilmente anche luoghi magari anche più incontaminati. Al di là dei toni un po' bacchettoni, il tema è effettivamente importante, quindi vi invito a dare un occhio su questo brano appunto dal sito della Gazzetta dello Sport. Invece noi stacchiamo con un breve brano musicale e poi entriamo nel vivo con l'incontro con Peppe di Ape Roma. Last mile, well if you battle me, I will provide. telefono quest'oggi con Peppe di Ape Roma. Peppe, oltre che un attivista, uno dei fondatori della sezione romana dell'Ape, è anche un caro amico. Ci siamo visti lo scorso weekend a Roma, a Garbatella, in occasione di un trekking urbano dell'Ape, che è stato anche però appunto l'occasione per l'appunto per raccontare qualche novità in casa Ape Roma. Quindi chiedo a lui, oltre a dargli evidentemente l'ennesimo benvenuto sulle onde dei picchi di frequenza, di farci qualche aggiornamento a partire dalla sezione capitolina dell'Associazione Proletari Escursionisti. Ciao Albo, ciao a tutti gli ascoltatori di Picchi di Frequenza. Sì, insomma, noi siamo reduci di questa bellissima domenica che ha visto tutta la nostra associazione, la nostra comunità partecipare per il terzo anno consecutivo, perché è il terzo anno che ripercorriamo questo sentiero segnato da noi, dedicato a Vittorio Vitolo, in arte Vittor Cavallo, un poeta, uno scrittore, un cineasta, un personaggio emblematico e famoso, nato e cresciuto a Garbatella. Partecipazione grandissima anche quest'anno circa un centinaio di persone. Alla fine del percorso ci siamo ritrovati appunto con te per presentare il tuo libro Sport e Proletariato. È stato un momento piccolo, assembleare, dove abbiamo dato anche questa notizia bomba che abbiamo qui a Roma di questa struttura che stiamo prendendo in gestione, che ormai abbiamo preso in gestione e che ci apprestiamo a gestire appunto e a condividere con tutti quanti il nostro agare e con tutte le altre sezioni di Ape, naturalmente vecchie e nuove, perché ce ne stanno anche nuove, quindi siamo molto contenti. Ecco, visto che l'Ape non conosce un suo rifugio ormai dai lontani anni 70, ti chiedo un po' di raccontarci dove ci troviamo, dov'è questo rifugio, come lo state prendendo in gestione, come vi preparate a questa avventura. Sì, perfetto. Allora, guarda, noi già da un anno e più eravamo alla ricerca, ecco, di un posto da poter gestire, per fare in modo che sia anche una casa base, ma principalmente cercavamo un posto che funzionasse non come luogo di arrivo, quindi dove arrivare magari e passare una giornata facendo semplicemente qualche camminato, andando a visitare qualche sito archeologico o naturalistico. A noi interessava soprattutto che quel posto fosse l'inizio della creazione, ecco, di una rete col posto stesso, con la realtà territoriale che ci trovavamo a vivere. Noi conosciamo tutta la regione del Lazio, andiamo a camminare sulle principali catene montuose e ci siamo subito concentrati nella zona della Sabina, quindi parliamo della provincia di Rieti. In questo paese poggiocatino, in piena Sabina, siamo entrati in contatto con delle persone che erano già affidatarie di questo posto, appena fuori da questo paese, da Poggiocatino. È una struttura molto grande, fondamentalmente fatta di tre edifici in legno e in pietra, ormai non utilizzata da parecchi anni, era gestita da un'associazione prima di noi, e abbiamo fatto una proposta. Abbiamo proposto di gestire e di fare le opere di ristrutturazione che sono necessarie in questi casi, di fare una pulizia approfondita, di mettere in sicurezza tutta l'area, e a Pasquetta, lunedì a Pasquetta, faremo questo primo evento ufficiale, daremo vita a questo rifugio alveare. Ecco, ancora il nome non è stato deciso, però al momento è un rifugio alveare, quindi stiamo iniziando un nuovo percorso da condividere insieme. Ecco, per quanto riguarda invece le prossime date di Ape Roma, che cosa puoi raccontarci? Allora, guarda, noi il 14 maggio già abbiamo fissato la partecipazione anche quest'anno all'Appia Day. La via Appia è una strada che sta vicino il nostro quartiere, la Garbatella, e anche quest'anno partecipiamo facendo un'iniziativa dedicata anche ai più piccoli. Quest'anno abbiamo anche ricevuto l'appoggio e la conferma dell'AMPI. Parteciperemo assieme all'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, che ci racconterà un po' la battaglia che è venuta a Porta San Paolo a Roma durante la liberazione, e faremo anche una visita alle fosse ardeatine. Poi naturalmente continuano gli incontri con Pappa Reale, ce n'è uno già in programma con Giannotti della Compagnia dei Cammini il 19 qui a Garbatella, a Casetta Rossa, e naturalmente i trekking, ricominceremo da fine mese, andando un po' sulle pine, sui simbruini a fare qualche camminata. Allora, io festeggerei assieme questa notizia che sembra poca roba, perché appunto chiaramente ciascuna delle sezioni, come ogni persona che va in montagna, ha i suoi posti amici, luoghi conviviali, spazi in cui si sente a casa, però il fatto di avere un rifugio, o comunque diciamo così una casa base non urbana, ma in quota, stiamo parlando di una quota più che collinare, forse poco meno che montana, se non sbaglio attorno ai 700 metri di altitudine, esatto. È sicuramente una meta sospirata e raggiunta. Ricordo, anche se i nostri ascoltatori qualcosa conoscono della storia apeina, che è un sogno che si rincorre sin dagli anni 20, dal 1923 per la precisione. Fondi poi generosamente donati, quelli per acquistare il primo terreno nei Pieni Resinelli per il soccorso proletario, nuovamente un sogno ritrovato nei primissimi anni 50 con la costruzione a mano del rifugio alveare alpino, e quindi vedere che ancora ormai quasi a un secolo preciso di distanza il sogno prende nuovamente vita, anche se in forme, in luoghi differenti, è di certo un successo che condividiamo volentieri, se ce lo permettete, assieme a voi. Assolutamente sì, anzi, come già ci siamo detti quando ci siamo visti domenica qui a Garbatella, noi vogliamo che quella sia veramente la casa di tutti gli apeini. Non solo, vogliamo che sia un posto dove le persone possono venire, possono conoscere la storia della nostra associazione, possono partecipare attivamente alle iniziative che di volta in volta programmeremo, e ce ne sono tante. Già stiamo pensando a un centro estivo da fare a luglio con il nostro centro estivo autogestito, che ogni anno ormai a Casetta Rossa richiama decine di bambini. Pensiamo a delle formazioni, vogliamo risegnare dei sentieri che ormai sono stati persi, quindi abbiamo tanto da fare e siamo pronti a calarci in questa nuovissima avventura. Allora Peppe, io come sempre, anche se l'abbiamo già raccontato ormai diverse puntate fa, ti saluterei chiedendoti di ricordarci quelli che sono i riferimenti, dove troviamo Ape Roma nel mondo reale e in quello digitale. Perfetto, allora sì, Ape Roma la trovate su Facebook, abbiamo una pagina ufficiale, Ape Roma, che è Associazione Proletaria Escursionisti Sezione di Roma, esiste anche un gruppo pubblico che utilizziamo per condividere foto, video ed altro, poi naturalmente c'è il sito aperoma.org e anche la pagina di Casetta Rossa, Casetta Rossa su.org e su Facebook, dove di volta in volta rimandiamo tutte le nostre iniziative e i nostri interventi. Perfetto, grazie mille Peppe, e speriamo di non più di risentirci, ma di rivederci quest'estate in occasione del campeggio apeino. Assolutamente Abbo, grazie a te sempre per la disponibilità e lo spazio, e ci vediamo e sentiamo prestissimo, grazie. I've noticed you only contact me when I've got some weed, or when I'm in need to help you with something you need to do. I must have been the fool, cause now I see the real you. You couldn't even look me in the eye, I knew something was wrong, you can't justify. It's all a lie, telling me others' business and telling me how they be. Come to think about it, you could be doing it to me. The pieces of the puzzle are not fitting into place. I know what kind of person you are, you a disgrace. I don't hold a grudge even though what you did, I just can't trust you with absolutely anything. If I see you, it's just high and bright, keep it on my way. Cause I got things to do, I got bills to pay. I've had enough of your two-faced company, and that's the way it's gonna be, my film will come to reality. Do you remember the times when it was cold outside? Everyone's remember that's a dark come to mind. Hours and hours of blazing, feel fine. Did you think your parents would allow it at that time? I didn't think so, and now you know how. It was growing up with ungrateful brothers of power. It makes me wanna scream, it makes me wanna shout. Non lo abbiamo fatto in apertura, ma recuperiamo immediatamente con qualche proposta del lungo weekend per chi ha voglia di andare in montagna approfittando del Ponte Pasquale. Si comincia con appunto lunedì 17 aprile, ore 8:30, siamo a Toscolano Maderno, dove va in scena l'escursione alla Valle delle Cartiere, organizzata, per trovare riferimenti sui noti social network, da Ape Brescia ed Arci Persichello di Cremona, lunghezza 8 km e una scesa accumulata di 300 metri, insomma è una gita collinare di un paio d'ore e poco più. Breve percorso nella valle del torrente toscolano fra i resti delle antiche cartiere. Lo stesso giorno, ne avevamo accennato qualche settimana fa, va in scena la seconda puntata, il secondo appuntamento di tre dell'annuale Sentieri Partigiani, che arriva quest'anno alla 14ª edizione. È organizzato dall'associazione Olinda. Il titolo dell'evento Facebook è 14esimo Sentieri Partigiani 17 aprile 2017 ad Isella, in provincia di Novara. L'appuntamento, per chi volesse partire assieme, è alle ore 9:30 in Borgosesia, altrimenti trovate tutte le informazioni per partire da Milano, pranzo al sacco e insomma tutte le indicazioni per questa escursione, un anello di 5 ore, dislivello 500 metri, sentiero panoramico, difficoltà escursionistica, e trovate anche evidentemente i riferimenti storici legati a, appunto, a questa gita. Mentre sempre lunedì 17, sempre Pasquetta, come accennato in apertura, ma lo ricordiamo, Aperoma organizza la Pasquetta al Rifugio Alveare. Si inaugura con partenza alle ore 11, la località è Poggio Catino, quindi Monti Sabini. E insomma, se avete voglia di dargli una mano, anche perché ci sono parecchi lavori da fare prima di rendere completamente agibile lo spazio, questa è l'occasione. What was your life? They wanna screw. It's true when I say you, all they want is attention. To satisfy their needs with no consideration. To all you people who's got more than one face, you better be your defense, cause now he's on the case. The mix that you sprayed has been cleared from my eyes. What goes around that comes around, you're gonna realize. Two-face, when it's written on your face. When you're out on the estate, got the role to lie. Just always played about me. People are in disguise. Suck a word, life was sweet. Who needs enemies when you got friends like these? Save his money when he's with you, but you know it's full of cheese. Oh, please. Who up and try to eat up my cake? Two, you're two-faced. Two-faced. When it's written on your face. Two-faced. When you're out on the estate, got the role to lie. Just always played about me. People are in disguise. Suck a word, life was sweet. Who needs enemies when you got friends like these? Siamo arrivati a uno degli ultimi appuntamenti di Pedagogia della Montagna. Siamo stati a lungo in compagnia di Paolo di Ape Milano, che ci ha guidato con grande intelligenza, con grande equilibrio, con grande saggezza, per scoprire meglio, approfondire come andare in montagna, appunto, con intelligenza e in maniera seria ed equipaggiata. Ma non possiamo non parlare di alcuni oggetti che sembrerebbero secondari, ma che non lo sono affatto. Buongiorno Paolo e bentornato. Buongiorno a tutti e a tutti. Sì, oggi parliamo velocemente di due articoli di vestizione apparentemente poco importanti, ma che in realtà dobbiamo assolutamente avere, se non addosso sicuramente nello zaino, che sono i guanti e il cappello, sia nella versione estiva per quanto riguarda il cappello, ovviamente solo invernale per quanto riguarda i guanti. Partendo dai guanti, le mani, come tutte le terminali, sono estremamente soggette ad andare incontro a pericoli e a sentire in maniera molto forte soprattutto la questione del raffreddamento, sia per la temperatura che eventualmente per agenti atmosferici quali neve o pioggia. È importante quindi averle sempre protette, e la cosa più importante quindi avere dei buoni guanti. Ve ne sono in commercio di un'infinità di tipologie, sia per quanto riguarda la forgia, quindi sia quelle con le dita, o la più famosa, quella a moccola, quindi avendo solamente il pollice e tutto il resto della mano avvolto in un caldo guanto. Sono praticamente ormai da diverso tempo, sono diversi i materiali con i quali sono fatti, si va dalla più comune lana fino a tutti gli altri tipi di materiali con cui sono fatti fondamentalmente gli altri capi d'abbigliamento, quindi il windstopper, il soft shell, il pile e cose così. Diciamo che ognuno da questo punto di vista si deve sentire libero di prendere il modello che più predilige, anche perché i costi sono estremamente eterogenei. Attenzione a non cadere, diciamo così, in un settore di guanti di alpinismo e di alta quota, dove magari vi possono essere articoli di piumino, moffoli di piumino con costi veramente elevati sopra i 100-150 euro, ma assolutamente stare su un range di spesa molto molto più contenuta ed eventualmente appunto rimanere non oltre i 20-25-30 euro. Questo secondo me è un prezzo più che abbordabile per avere dei guanti sicuramente di buona fattura e che tengano adeguatamente casa riparata, calde riparate le nostre mani. Sicuramente si può scegliere poi tra le varie appunto inclinazioni personali. Io particolarmente quando so di non dover usare le mani per la progressione o magari anche per impugnare in maniera molto decisa i bastoncini, per esempio prediligo le vecchie moccole di lana cotta, che sono sicuramente quelle a minor prezzo e tengono veramente un caldo incredibile, sono anche poi anche molto belle anche da vedere, a me particolarmente da un punto di vista estetico mi piacciono molto, però ripeto, ognuno si senta liberi sui guanti di prendere quello che meglio crede. A volte io consiglio che è preferibile, piuttosto che avere un paio di guanti estremamente costoso, ma un paio solo, a volte conviene averne due di minor prezzo, in modo tale che qualora si bagnino è più facile avere un ricambio caldo ed è molto più conveniente. Poi voglio dire, se qualcuno di noi fa anche di un'attività sciistica, secondo me in inverno può usare tranquillamente anche i guanti da sci. Diciamo che se, tendenzialmente potremmo fare il discorso come è fatto per le ghette, cioè piuttosto è meglio spendere qualche soldo in più per altri capi di abbigliamento, ma sui guanti direi che possiamo tranquillamente stare su dei costi estremamente più contenuti. Ecco, ti faccio sì, una domanda che può sembrare ingenua, ma mi sono posto diverse volte davanti all'acquisto dei guanti. Si trovano spesso offerte diverse, ma proprio di tipologie. Ci sono guanti, come dire, di cotone più leggeri e guanti più pesanti. Qual è la differenza e come usarli, come abbinarli eventualmente? Ma io direi che per un semplice escursionismo anche invernale non starei a fare questo tipo di vestizione a cipolla anche per le mani, che è una tipologia di vestizione. Io particolarmente quando svolgo attività in alta quota, ad esempio, parto da un sottoguanto magari in capilene per poi avere una moffola in lana battuta ed eventualmente un copriguanto in Gore-Tex. Però, ripeto, è una tipologia di vestizione d'alta quota. Insomma, quando parlo d'alta quota parlo di terreni malaiani, non neanche sulle Alpi. Quindi sicuramente per quanto riguarda l'escursionismo io eviterei di fare questo tipo di cose e stare tranquillamente anche sui guanti che ognuno di noi ha in casa, perché è un settore estremamente tecnico e secondo me anche un po' troppo, come dire, si è andato un po' troppo specializzando per quello che è poi... Diciamo che forse è più una moltiplicazione del prodotto per moltiplicare i dividendi piuttosto che una effettiva utilità per chi va in montagna sulle Alpi. Sì, esatto, sì, okay, secondo me è un po' dovuto a questione di mercato più che di utilità vera e propria, senza nulla togliere che effettivamente ci sono dei guanti estremamente tecnici, estremamente caldi, ma sono più legati secondo me all'attività alpinistica che non all'attività escursionistica. Mentre per quanto riguarda i cappelli, ecco, è estremamente importante la protezione della nostra testa sia in inverno che in estate. In estate, come sia, sono molto frequenti i colpi di sole, le insolazioni, una scottatura sul capelluto vuol dire pregiudicare eventualmente anche il buon esito di un'alta via, ad esempio, e comunque insomma un aspetto estremamente doloroso, oppure i più semplici colpi di sole con svenimenti sul sentiero e poi eventualmente con delle conseguenze dovute alla caduta. Quindi non è mai da sottovalutare la questione della protezione della nostra cute della testa, soprattutto anche nel periodo estivo. Ce ne sono diversi modelli. Io consiglio vivamente quelli anche di derivazione del mondo dei runner, che sono estremamente leggeri, sono di un tessuto molto vicino al cotone leggero, hanno una ottima traspirabilità e comunque garantiscono un'ottima protezione dai raggi UV, e hanno visierina di solito che è molto utile. Quindi è estremamente importante anche nei cappelli estivi assicurarsi che abbiano una leggera visiera, eventualmente alcuni ormai gli ultimi modelli li fanno anche con un discreto paraorecchio, perché appunto le scottature sulla parte superiore delle orecchie sembra una stupidaggine, ma sono sicuramente tra le cose più dolorose che si possa andare incontro. Il materiale possono essere variabili, dal nylon al poliestere. Sicuramente io sconsiglio, questo sì, i cappelli tipo, diciamo così, da baseball, perché hanno una forgia molto pesante, una visiera molto rigida, un tessuto di cotone molto pesante che fa sudare tantissimo, non è traspirante, quindi li sconsiglierei vivamente. Preferisco allora molto di più consigliare eventualmente bandane o dei fazzoletti, comunque qualsiasi cosa di leggero, di cotone, che possa anche essere imbevuto d'acqua, soprattutto nelle escursioni più calde, durante le ore più calde appunto della giornata, che non appunto questo tipo di cappellini. L'importante è sicuramente avere una protezione per quanto riguarda la testa in qualsiasi situazione ci si trovi ad operare all'esterno, sia appunto in estate che in inverno. Per l'inverno anche qui la molteplicità di modelli di cappelli è estremamente variegata, si va dai più normalissimi cappelli di lana a quelli ormai anche loro, come per i guanti, come per altri indumenti, forgiati con i tessuti che abbiamo già visto in precedenza, quindi il pile, il soft gel, la lana cotta. Anche in questo caso sono estremamente importanti avere un'adeguata protezione di tutta la circonferenza della nostra testa, in particolar modo soprattutto le orecchie, perché anche appunto in inverno sono soggette ad inizio di congelamento, soprattutto in situazioni di forte vento. E anche in questo caso ve ne sono diverse tipologie per ogni gusto e per ogni tasca. Mediamente un buon cappello, sia invernale che estivo, diciamo così, di settore, quindi un po' più su un fronte tecnico, si viaggiano dai 20 ai 40 euro, non di più. E sicuramente sconsiglierei di andare oltre questo range, ma anche tranquillamente di stare sotto. Ripeto, l'importante è assicurarsi sempre la protezione dai raggi UV durante il periodo estivo e dal freddo intenso durante il periodo invernale. Questo è secondo me è il consiglio vivo che mi sento di dare, e di non trascurare questi due oggetti apparentemente poco utili, ma che in realtà veramente fanno la differenza, perché le mani e la nostra testa sono le prime cose che vengono a contatto con gli agenti esterni e spesso e volentieri ce ne dimentichiamo. Perfetto, direi che anche oggi siamo stati più che completi ed esaustivi. Direi che ci diamo ancora qualche appuntamento nelle prossime settimane per gli ultimi dettagli, diciamo, del completamento degli strumenti con cui andare in montagna. Come sempre l'invito è a scriverci, seguirci, darci consigli, critiche, suggerimenti e tutto quello che vi passa per la testa, e come sempre un caloroso ringraziamento al nostro Paolo. Grazie a voi, un saluto a tutti e a tutti e buon weekend, spero, per Sentieri di Montagna. Anche questa puntata, ed era la numero 62 in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Come di consueto vi invito a condividere con noi idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti all'indirizzo mail abo@inventati.org, sulla pagina blu Picchi di Frequenza del noto network, o su quello azzurro all'account @abuzzo3. Tutto il resto, l'archivio con le prime 62 puntate, all'indirizzo amonte.info. Noi ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.